2. In classe. In classe, la professoressa di lettere saluta Alexandra con un sorriso. Poi le fa tante domande. Di dove sei? Vengo dalla Romania. Da che città vieni? Da Iasi. Quando sei arrivata in Italia? Ad agosto. Parli l'italiano? Un po'. E poi? Ragazzi, dite i vostri nomi alla nuova compagna. I ragazzi parlano tutti insieme. Daniele. Gabriele. Eleonora. Claudio. Giovanna. Giacomo. Giorgia. Riccardo. Ragazzi, aiutate Alexandra. Lei non parla bene l'italiano, dice la professoressa. Ma Giovanna si alza e dice: professoressa, io non posso aiutare Alexandra. Non sono brava. Alexandra non può stare vicino a me. Alexandra si siede al primo banco. È molto offesa. Non le piace Giovanna.